Europa 24. Ancora buongiorno, dunque oggi e domani Eurogruppo Ecofin a Bruxelles, si tratta di fare i conti con la guerra, forse un'espressione un po' forte, ma sicuramente il contrasto in atto tra Parlamento europeo e Consiglio sull'ultima parte dell'unione bancaria, cioè il meccanismo e il fondo di risoluzione unici. Le due istituzioni sono infatti ferme su posizioni molto distanti, ma l'intesa deve arrivare entro l'inizio di marzo per poi essere approvata dall'ultima plenaria del Parlamento UE ad aprile. Vi ricordo ancora una volta, a maggio il voto e quindi nuova legislatura. Intanto a Bruxelles è settimana anche dell'Italia. Mercoledì Enrico Letta sarà nel quartier generale dell'UE per presentare Expo 2015, dunque l'Expo di Milano, e partecipare alla riunione della Commissione a cui illustrerà gli ultimi provvedimenti economici del governo e le privatizzazioni. Tutto questo mentre naturalmente restano accesi i fari di illuminazione sulla crisi in Ucraina. Negli ultimi minuti, tra l'altro, si registrano anche degli arresti nell'est dell'Ucraina, appunto decine di manifestanti arrestati, quindi non solo più Kiev. E intanto Bruxelles comunica che il commissario europeo all'allargamento Stefan Füller sarà di ritorno a Kiev, anzi lo è in questi minuti, per tentare di dare il contributo dell'Unione Europea, dunque per cercare di sbrogliare la matassa della politica, della crisi politica in corso, per sottolineare il nostro impegno nei confronti dell'Ucraina, dice il commissario. Füller dunque torna in questi minuti a Kiev per cercare di affrontare questa crisi. E sulla vicenda si è espressa questa mattina il ministro degli esteri italiani Emma Bonino, ha detto no a sanzioni europee contro il governo di Kiev. E poi sentiamo. Evidentemente per le decisioni prese, per la repressione usata, per le leggi promulgate, anche se ieri c'era un'apertura al ritiro di quelle leggi, pone Yanukovych ovviamente in una situazione quasi insostenibile. Domani o dopodomani ci sarà il vertice Unione Europea-Russia a Bruxelles, che già aveva tutta una serie di altri problemi, e io credo sarà quello anche un'occasione per continuare la pressione che stiamo facendo a tutti i livelli, sia a livello Kiev sia a livello ovviamente Mosca, intanto perché appunto si ponga fine perlomeno alle violenze e al tipo di repressione. Vertice UE-Russia dunque, domani dopodomani lo seguiremo con attenzione. Intanto cambiamo tema, il fenomeno della contraffazione a livello europeo. Naturalmente è italiano ma è europeo, se ne discute proprio a Roma oggi in un evento organizzato dalla Commissione. Valentina Europea ha sentito Valentina Furlanetto, ha sentito Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione UE. La Commissione Europea ha lanciato una campagna di informazione che si chiama EU Stop Fakes, quindi no alla contraffazione, è stata lanciata da Tajani e dal commissario Barnier, responsabile per il mercato interno. La ragione di questa campagna è quella di avvertire, di far alzare il livello di guardia agli Stati membri, ai cittadini in tutti gli Stati membri dell'Unione, che sono 28, sui pericoli del falso. Forse non tutti i paesi hanno una sensibilità pari su questo, perché leggevo che il 92% dei controlli complessivi in Europa sono condotti in appena 10 paesi europei. Sì, questo è un fatto da sottolineare, perché che ci siano praticamente il 92% dei controlli in solo 10 su 28 paesi è piuttosto preoccupante. Volevo sottolineare anche un fatto, diciamo, oltre alla campagna di informazione europea è stato creato finalmente, dico finalmente, un osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria, e al Parlamento europeo sono depositati alcuni progetti di legge per riuscire a rendere obbligatoria l'etichettatura. Oggi il volume mondiale degli scambi di merci contraffatte è di 200 miliardi di euro all'anno, è una cifra importantissima che è pari a quella del commercio della droga. Grazie, dunque per ora è tutto, Europa 24 torna domani intorno alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.